kapitaan en me wat benen saaien. En soefatjes, dat ziet er op me. Pero in licent, ze noemen me mannen maaien. Ne meen op me zoer en bratje te. Per te vina vedel, per te abbraccia carme. Ho detto a capitane, signor, sì, così, così. Carino, non giusta niente di, non giusta niente fa. E su un cammin milanese come voglia, capitan. Perciò te lo dice mi, Milano è un gran Milano. Mandatemi licenza da Carmela, capitan. Il perché son di Milano, capitan, mo voti chi. So Pascala Catalana, fratta l'astra di Mimì. Mimì che è il primo genito dei figli di papà. Conosce guardaporte di un signore di Milan. Perciò te dice mi, non c'è sta niente fa. I son che milanese da Carmela devo andare. Compagnia, dietro, fru, padre verso lo gravunar, avanti, mar. Carmela mi già songa caporale, è nata cosa vivere quassù. Mo parlo con manu settentrionale, chi stessa mica mi capisce più. Perché non puzza sta, memore deve sa. Ho detto al capitano, signor, sì, così, così. Non c'è sta niente a dire, non c'è sta niente a fare. E son che milanese come voglia, capitano. Perciò te lo dice mi, Milano è un gran Milano. Mandatemi licenza da Carmela, capitan. Se la marcia dura un mese, son felice di marciare. Ma da brava milanese non mi fide a camminare. Però se ad un Carmela devo correre, si sa. Nemmeno a diritissime non me può superare. Perciò te lo dice mi, non c'è sta niente a fa. E son che milanese da Carmela devo andare. Non c'è sta niente a di, non c'è sta niente a fa. I son che milanese non me voglio capitare. Perciò del disemmi, Milano è un gran Milan. Mandatemi licenza da Carmela capitan. Il perché son di Milano capitan, mo vo di chi. So Pascala Catalana, fratta l'astra di Mimì. Mimì che primo genito dei figli di papà. Conosce guarda porte un signore di Milan. Perciò del disembi, non c'è sta niente a fa. I sono milanese da Carmela devo andare. Compagnia, adunata! Pasquale Catalano, il licenza premio!